Radio 24 Reportage. MUDEC, dove le culture incontrano Milano, di Marta Cagnola. I milanesi lo hanno atteso per anni e alla fine è arrivato il MUDEC, il Museo delle Culture, festeggiato, vezzeggiato, coccolato fin dal suo primo giorno di apertura in marzo con due mostre in tempo per l'Expo. A tenerlo a battesimo, tra gli altri, l'assessore alla cultura di Milano, Filippo Del Corno. Con due mostre, una dedicata con Mondi a Milano alla storia del rapporto tra la nostra città e le culture altre, e l'altra dedicata a quel grande continente che è l'Africa, apriamo questo spazio per la città, il Museo delle Culture, che inizia il suo cammino, inizia il suo percorso, che evidentemente conoscerà altri momenti poi nel corso appunto dei prossimi mesi per arrivare alla sua versione definitiva, ma apriamo con queste due mostre questo spazio che la città ha sempre molto atteso e che avrà un fortissimo ruolo e un fortissimo rilievo chiaramente durante i sei mesi dell'esposizione universale, e questo sarà il centro dove le culture si incontreranno. Noi apriamo uno spazio a tutte le culture che abitano Milano e che troveranno proprio qui il luogo ideale per costruire una rete di relazioni, di proposte, di progetti e di conoscenza. Apriamo con due mostre straordinarie fortemente connesse al tema dell'esposizione universale. La prima si titola Mondi a Milano e racconta la storia che Milano ha sempre saputo intrecciare di relazioni di confronto con le culture altre del nostro pianeta, e la seconda invece Africa è un grande racconto che cercherà di restituire la molteplice identità di uno dei continenti sicuramente grande protagonista durante Expo 2015. L'edificio che ospita il museo in via Tortona, la zona del mobile, è bello e sorprendente, spiega Fulvio Irace, docente della facoltà di design del Politecnico di Milano. Questo spazio è bellissimo, voglio proprio spezzare tutte le lance in favore di questo progetto, e Milano deve essere consapevole che è un'opera di grandissima qualità, di prima qualità, un'opera che diciamo sta al top del curriculum di Cipefid e quindi vuol dire al top diciamo dell'architettura internazionale. Quindi abbiamo un vero gioiello che bisogna mettere a posto tutti i suoi dettagli perché sia perfetto, perché quest'opera esige la perfezione, e credo che la scelta diciamo anche di Cipefid dal punto di vista architettonico sia stata molto calibrata sui toni di città di Milano, che è una città sobria, che non ama o non amava forse gli eccessi, per cui questo progetto diciamo è visibile appena appena da lontano per quel pezzo della grande nuvola, cioè del lucernaio a forma libera che emerge diciamo dal skyline della fabbrica stessa, ma per il resto va scoperto, quindi bisogna entrare nel museo per scoprire, è uno spazio diciamo del tutto inatteso. Certamente è un'esperienza per il visitatore entrare in un ingresso basso e anche tenuto un po' in penombra, essere attratti da questa grande scala nera che come diciamo proprio una pompa aspiratrice che ti invita ad entrare, e poi mentre sali scopri improvvisamente che il soffitto si è sfondato perché c'è questa grande nuvola, questa grande forma libera completamente rivestita di vetro semitrasparente, che è proprio come un cono di luce all'interno di quest'opera, e improvvisamente si passa da un'altezza normale di 3-4 metri a un'altezza di 6-12 metri, quindi c'è un momento quasi diciamo di stupore, dire com'è possibile questa cosa così strana. Quindi ritengo che quest'opera sia un'opera di cui Milano può e deve essere molto orgogliosa. È un'opera che dovrebbe avere un effetto straordinario nella rivitalizzazione diciamo dell'ex tessuto industriale di Milano, perché sappiamo che sorge all'interno di un recinto molto forte, diciamo molto esteso, dell'Ansaldo di Milano, e quindi diciamo rappresenta rispetto ad un contesto che è stato caratterizzato soprattutto dalla iniziativa privata, cioè tutto il distretto di via Tortone, via Savona, diciamo è un distretto che è un'opera di rivitalizzazione dell'area dal basso, attraverso diciamo l'iniziativa privata, che va benissimo, ma io credo che sia molto importante che un'opera di carattere pubblico finanziata dal comune, che rappresenta l'istituzione pubblica, faccia anche lei la sua parte, quindi quindi metta su un piatto che è già, come dire, non siamo dentro una periferia abbandonata, ma siamo in un tessuto che, come tutti i milanesi sanno, soprattutto per esempio durante le settimane del mobile, diventa, diciamo, come dire, una delle piazze più internazionali. Quindi è importante, diciamo, che il pubblico intervenga a bilanciare i pesi con una presenza nel territorio molto forte. Oltre 17.000 metri quadri di superficie espositiva che ci parlano di culture e dell'incontro della città con mondi lontani. Una città che non ha, a differenza di altre metropoli europee, un legame con un passato coloniale, ma che ha ospitato collezioni e collezionisti e che non può che arricchirsi approfondendo gli incontri con altre civiltà, spiega Marina Pugliese, direttore del Polo Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Milano. Come dice Lévi-Strauss, non possiamo capire la nostra cultura se non abbiamo confronti con altre culture e civiltà, e quindi per capire noi stessi dobbiamo capire la cultura degli altri, per cui credo che oggi sia un museo particolarmente importante. In tanti hanno citato il Musée du Quai Branly come riferimento, in opposizione o con un parallelismo con questo. Cosa ci sarà di diverso? La nostra cultura e la nostra storia recente rispetto a quella francese sono molto diverse. Esattamente, il nostro non è un museo legato alla storia coloniale, se lo è in minima parte. L'Italia ha avuto una storia assai diversa da quella delle grandi capitali europee che hanno importanti collezioni etnografiche. E questa forse è anche una virtù, nel senso che la nostra collezione, più che raccontare l'avventura coloniale, racconta l'avventura mercantile ed industriale, racconta delle grandi esposizioni e racconta del collezionismo privato milanese, che è sempre stato dai tempi antichi un collezionismo illuminato, quindi una storia un po' speciale. Quindi una storia di collezioni, ma anche di uomini, immagino. Una storia di collezioni e di uomini, una storia di dettagli legati all'industria, alla produzione, alla storia della seta, del rapporto tra Milano e Como, alle grandi esposizioni, insomma una storia ancora viva per certi aspetti oggi, che questo museo si colloca in un contesto di archeologia industriale, ma nella zona più viva della città grazie alla moda e grazie al design. Fino a ottobre al MUDEC due mostre curate da 24 ore cultura, Africa, la terra degli spiriti, e Mondi a Milano, nel cui comitato scientifico c'è il professor Fulvio Irace. Un museo che si chiama Museo delle Culture, che quindi nasce con l'intenzione di intervenire in qualche maniera su un tema sensibile, delicatissimo e senz'altro cruciale, su cui si gioca il futuro delle nostre città, che è quello delle società multietniche, non può non interrogarsi sul tema di che cosa vuol dire il dialogo tra le culture. Allora, questo museo nella sua collezione permanente starà a dimostrare esattamente questo, cioè che questi scambi tra culture si sono sempre avuti in maniera, diciamo, proporzionale ai governi, ai tempi, alle situazioni sociali e politiche, eccetera. Però, per esempio, la mostra Mondi a Milano sta a dimostrare come dal 1870 al 1940, quindi diciamo alle soglie della Seconda Guerra Mondiale, questi rapporti sono cambiati, sono diventati sempre meno di rapina e sempre più di un coinvolgimento attivo. Quando noi vediamo queste sale ci rendiamo conto che i rapporti che designer, artisti, architetti hanno avuto a partire dagli anni 20 con le culture più diverse, che sono da una parte l'Estremo Oriente, il Giappone, e poi soprattutto per l'Italia saranno le coste del Nord Africa e poi l'Africa orientale italiana, sono dei rapporti che, pur nell'odiosità, come dire, della guerra coloniale, sono stati recepiti dalle forze migliori della creatività come un interscambio importante. Il futuro del MUDEC, mostre e dall'autunno l'esposizione permanente nella sua collocazione definitiva, ma non solo, spiega Natalina Costa, amministratore delegato di 24 ore cultura. Siamo contenti perché il progetto è faraonico, ci sono stati dei momenti in cui si poteva dubitare che saremmo arrivati alla fine e invece siamo arrivati ad oggi. In autunno si aprirà il museo con la parte, di collezione permanente, e poi daremo vita alla nostra produzione solita, ma Dall'autunno partirà la Mudec Academy, partiranno tutte le attività dedicate ai bambini, partirà tutta l'attività di ingaggio relativa all'auditorium, performance, teatro. Quindi è un progetto faraonico perché ha tutti quanti i requisiti per essere un progetto che si imporrà all'attenzione mondiale. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.